Capitolo 2. L'utopia di Tommaso Moro, 1516. La lucidità e la saggezza di Tommaso Moro, Thomas More, questo intellettuale e libero pensatore che preferì la decapitazione a rinnegare ciò in cui credeva, ancora oggi toccano profondamente chi legge quest'opera con mente aperta e libera da pregiudizi. La chiamò utopia e i commentatori sostengono che il termine, coniato dallo stesso More, derivi dal greco utopos, ovvero non luogo, in senso diminutivo, quasi dispregiativo. Avendo io studiato un po' di greco, tuttavia, ritengo che se davvero Moro avesse voluto dare l'idea della impossibilità dell'esistenza di questo luogo, con una sfumatura scoraggiata come la si intende oggi, infatti un'utopia è sinonimo di qualcosa di assolutamente irrealizzabile, egli non avrebbe usato il prefisso u di utopia. Che significa non? Infatti è vero che u significa non, tuttavia normalmente il greco antico prevedeva che in questi casi si usasse il cosiddetto alfa privativo, a, come in apatia, assenza di pathos, ovvero di emozioni, o anonimo, senza nome. L'alfa privativo era il prefisso che si utilizzava tutte le volte che da un termine si voleva ricavare la sua negazione, astinenza, abulico, atomo, eccetera. Egli non usò l'alfa privativo, che avrebbe dato origine al termine atopia, bensì il prefisso u, poiché non intendeva un luogo impossibile da creare o un luogo che non sarebbe mai esistito, come si suole commentare oggi. Egli usò u, poiché in termini temporali intendeva dire non ancora esistente. Questa è la sottile sfumatura di u. Secondo me, Moro lo usò nel senso di non ancora. Egli non intendeva un non luogo geografico o storico, nel qual caso avrebbe appunto coniato il termine atopia, bensì intendeva un non luogo temporale, un non ancora luogo, di cui pose il seme nella dimensione delle infinite possibilità che oggi la scienza chiama il campo di Planck. L'astrofisica italiana Giuliana Conforti utilizza l'espressione non località, intendendo qualcosa che non esiste in un luogo fisico, ma esiste invece in un luogo possibile. Perciò egli mise un seme nell'istante preciso in cui pensò e scrisse quel prezioso testo che è Utopia. La descrizione di una società ideale, talmente realizzabile da farci dire perché non lo facciamo? Quel seme che poi fu raccolto da altri coraggiosi, liberi pensatori e che oggi io rilancio con la mia visione, sicura che le visioni sono semi che prima o poi si realizzano. La nuova scienza, infatti, ha dimostrato che la realtà è il prodotto della condensazione dei nostri pensieri. Il pensiero utopistico di Tommaso Moro, rafforzato da altre utopie analoghe descritte circa ogni 100 anni da altri, tra virgolette, visionari, saranno il futuro della razza umana alla fine del ciclo precessionale, quando tornerà la cosiddetta età dell'oro. Moro non ha inventato nulla, ha solo dato uno sguardo al lontano passato da cui proveniamo e al non lontano futuro nel quale saremo introdotti dal cambio di polarità del pianeta. L'amico di Erasmo. Tommaso Moro nacque a Londra nel 1478 in una famiglia colta e abbiente. Suo padre era giudice. Compì i suoi primi studi presso i frati francescani, poi studiò filosofia e greco a Oxford, dove ricevette la migliore educazione umanistica. Fin da subito si rivelò un giovane intellettuale, serio e impegnato. Progressivamente gli fu chiaro che avrebbe intrapreso l'indirizzo giuridico e che si sarebbe dedicato alla politica. La politica fu la sua grande passione e per essa rinunciò alla vocazione monastica, restando però fedele alla Chiesa di Roma fino alla fine. Nel 1500, durante il periodo di specializzazione in diritto, conobbe Erasmo da Rotterdam, di cui fu amico intimo per tutta la vita. Erasmo fu uno dei pensatori più contesi dalle corti dell'Europa del Cinquecento per la sua cultura e lucidità di pensiero. Fu colui che ebbe il coraggio di sostenere che le sacre scritture dovevano essere tolte dalle mani dei teologi e messe in quelle dei filologi, perché fossero ritradotte e depurate di tutte le contaminazioni ideologiche della filosofia scolastica, quella dei cosiddetti padri della Chiesa, riportandole al messaggio cristico originario. Erasmo, pacifista e difensore del libero arbitrio, era contro qualsiasi forma di imposizione dogmatica o di intolleranza, compresa quella religiosa. Grazie a lui, il giovane Tommaso ebbe accesso ai circoli letterari e umanistici più importanti d'Europa e poté cominciare a far sentire la sua voce all'estero. Divenne un famoso avvocato ed entrò nella vita politica inglese. Nel 1504 fu eletto alla Camera dei Comuni, si sposò ed ebbe 4 figli. Tuttavia, a causa della sua battaglia contro la politica erariale del re Enrico VII, che mirava ad avvantaggiare sempre più la classe dominante a scapito del popolo, suscitò le ire del sovrano e dovette allontanarsi dalla vita politica. Il re, per punire Moro, con un pretesto ne incarcerò il padre, rilasciandolo solo dietro pagamento di una pesante cauzione. Negli anni di interruzione della sua attività politica, Moro continuò a scrivere, a insegnare e a tradurre i classici. Con l'ascesa al trono di Enrico VIII, che lo stimava al punto da nominarlo Lord Cancelliere nel 1529, Moro tornò a far sentire la sua voce sulla scena politica e sociale inglese ed europea. Rappresentò Londra nel primo Parlamento e divenne vice sceriffo. Partecipò anche ai lavori del secondo Parlamento ed ebbe incarichi diplomatici. Purtroppo cadde nuovamente in disgrazia presso la monarchia, quando si rifiutò di rinnegare l'autorità del Papa e di riconoscere l'incoronazione di Anna Bolena, la seconda moglie protestante del re. Per questa sua coerenza fu incarcerato nella Torre di Londra e decapitato nel 1535 all'età di 57 anni. Tommaso Moro, amico di Erasmo, fu sostenitore di una riforma cattolica in direzione però non dello scisma che si preparava da parte della corona inglese, bensì di una religiosità erasmiana, ovvero di un ritorno a valori umani in ambito cristiano, a una rinuncia ai benefici e alle ricchezze ecclesiastiche, per rivolgersi nuovamente alla cultura e al buon senso, quasi una strada gandhiana. Erasmo aveva parlato di una rinuncia all'attesa del regno celeste a favore della creazione di un regno dell'uomo, quell'uomo di cui Gesù si era detto figlio. Fu per questo che Tommaso Moro rifiutò di rinnegare l'autorità del Papa, pensando che non fosse quella la soluzione. La sua coerenza lo portò alla morte. Certo è che Moro fu un uomo pericoloso per il sistema a causa delle sue idee. Egli proclamava la rinuncia alle ricchezze e all'oro, l'abolizione del denaro e della proprietà privata. Una società di pari, basata sul lavoro di tutti, sul diritto allo studio e sull'assenza di privilegi. Sorge quasi il dubbio che l'accusa del re fosse pretestuosa e che il vero motivo per cui fu ucciso sia stato il medesimo che causò decenni di carcere a Tommaso Campanella: la pericolosità del messaggio di cui entrambi furono portatori, un messaggio in grado di disgregare il sistema su cui ancora oggi si basa il potere. La società perfetta di Tommaso Moro. In Utopia o Utopia, il navigatore Raffaele Itlodeo dell'equipaggio di Amerigo Vespucci racconta a Tommaso Moro e a suo amico Pietro Gil la sua esperienza nell'isola di Utopia, dopo aver lasciato tutti i suoi beni ai fratelli, tra virgolette, in Portogallo. Seguì Vespucci nei suoi viaggi, fino a che non giunsero nell'isola felice, Utopia appunto, dove Itlodeo si volle fermare per poterne conoscere a fondo gli usi. L'isola è a forma di luna nuova, ovvero il quarto di luna crescente. Tra le due punte, un braccio di mare di 11 miglia forma una baia dove attraccano le navi dei visitatori stranieri. Utopia è formata da 54 città nelle quali si parla la stessa lingua e vigono le stesse norme. Da ognuna di esse ogni anno partono 3 cittadini tra i più anziani per riunirsi in un luogo nel quale verranno decise le quantità delle derrate necessarie ad ogni città. Nessun principe deve essere troppo ricco per evitare che diventi insolente e prepotente. Nessun magistrato è borioso e terribile. La vita sociale si svolge alla buona e le leggi sono poche, poiché a chi vive in armonia con la natura non occorrono molte regole, oltre a quelle che già istintivamente egli segue. Non esistono avvocati, poiché le parti in causa, quelle poche volte che ci sono degli attriti, vengono chiamate a spiegarsi di persona, giacché nessuno può conoscere i fatti meglio dei diretti interessati. L'attribuzione delle cariche dirigenziali deve avvenire non in base alla ricchezza, ma alla saggezza. E nessuno possiede terra, poiché di quel che posseggono si considerano coltivatori piuttosto che padroni, citando letteralmente. Tutti sono chiamati a prestare lavoro nei campi, donne e uomini, e ogni anno vengono rinnovati gli addetti all'agricoltura affinché nessuno eserciti il lavoro dei campi contro voglia o contro le sue naturali inclinazioni. Possono tuttavia restare indefinitamente a coltivare la terra coloro che lo fanno con passione e desiderano che sia la propria attività. Oltre all'agricoltura, che è comune a tutti, ognuno deve apprendere un'arte che gli piaccia e per la quale si senta naturalmente portato: lanaiolo, tessitore, muratore, fabbro, falegname. Le donne vengono avviate a lavori più leggeri, gli uomini a quelli più pesanti. Normalmente ciascuno viene indirizzato al mestiere di suo padre, ma, cito, se qualcuno per temperamento è portato ad altro, passa per adozione in una famiglia che fa il mestiere per cui egli ha passione. Cosicché ciascuno si senta realizzato in ciò che fa e per conseguenza lo esegua volentieri e al meglio delle sue possibilità. A nessuno è richiesto di lavorare oltre le 6 ore giornaliere, a meno che non lo desideri. Nessuno deve stancarsi, perché solo lavorando al meglio delle proprie possibilità si ottimizza il risultato. Il tempo che non viene dedicato al lavoro può essere utilizzato per studiare. Ogni giorno vi sono pubbliche lezioni aperte a entrambi i sessi. Il fatto che ognuno si occupi di un'attività che gli piace fa sì che tutti lavorino di buona lena e che quindi nell'isola vi sia abbondanza di tutto ciò che serve pur lavorando poche ore. Quando le autorità si accorgono che nell'isola c'è abbondanza di tutto ciò che occorre, ordinano una diminuzione di ore di lavoro affinché nessuno venga impiegato inutilmente, ma possa godere del suo tempo come meglio crede, per la cura del suo corpo e del suo spirito. La regola principale è l'abolizione totale della proprietà privata per garantire l'uguaglianza dei doveri e dei diritti di tutti. Non è possibile, cito, distribuire i beni in maniera equa e giusta, o che prosperino le cose dei mortali senza abolire del tutto la proprietà privata. Finché dura questa, durerà sempre, presso una parte dell'umanità che è di gran lunga la migliore e la più numerosa, la preoccupazione dell'indigenza, col peso inevitabile delle sue tribolazioni. Nessuno deve possedere terra oltre una determinata quantità necessaria. Quando si avvicina il giorno della mietitura, i capi di ogni città indicano di quanta manodopera c'è bisogno ed essa viene radunata. Il lavoro comune per la produzione di derrate è cosa normale e viene compiuto serenamente e di buon grado. Ciò che serve per lavorare viene fornito dalle autorità cittadine, senza permuta, cioè senza pagamento né scambio, ma al contrario, gratuitamente e liberamente. Le case vanno scambiate dopo pochi anni per evitare che ci si senta proprietari. Esse sono tenute in ottime condizioni affinché durino a lungo. Riguardo allo scambio dei beni, Moro scrive: ogni città è divisa in 4 parti uguali e al centro di ogni parte c'è mercato di tutte le cose. Quivi, in determinati locali, si portano i prodotti di lavoro di ogni famiglia e nei magazzini vengono ripartite separatamente le varie specie di prodotti. Da qui attinge qualsiasi capofamiglia. Tutto ciò di cui lui o i suoi abbisognano e senza denaro, senza prestazione alcuna, ottiene tutto ciò che chiede. E per qual motivo gli si dovrebbe rifiutare qualcosa quando c'è abbondanza di tutto? Non solo, scrive sempre Moro, ma non c'è paura che qualcuno chieda più del bisogno. E perché supporre che possa chiedere il superfluo chi è sicuro che non gli mancherà mai nulla? è la paura di venire a mancare che rende bramosi e rapaci, e inoltre la vanagloria nel superare gli altri ostentando il superfluo. Questa lucida analisi della motivazione, tanto all'accumulo di beni quanto all'utilizzo di denaro come mezzo di scambio, o viceversa al suo abbandono, è in assoluta risonanza con la parte portante della mia teoria, come esporrò nell'ultimo capitolo. Più avanti, Moro scrive anche: soperchierie, truffe, ladronecci, risse, sconvolgimenti, alterchi, assassini, tradimenti, avvelenamenti, cui i supplizi ogni giorno s'affannano a punire anziché raffrenare, una volta tolto di mezzo il danaro, se ne andrebbero anch'essi, che insieme col danaro sparirebbero contemporaneamente anche paure, preoccupazioni, affanni, fatiche e veglie. La povertà stessa, levato di mezzo assolutamente il danaro, diminuirebbe via via anch'essa. E la conclusione dell'opera ricorda ancora una volta in cosa consiste il massimo fondamento di tutta la loro organizzazione sociale, cioè, scrive, la vita e i beni in comune, senza alcuno scambio di denaro. Le leggi degli utopiani. I pasti vengono messi a disposizione gratuitamente in appositi, tra virgolette, alberghi, dove tavole apparecchiate ospitano 30 famiglie. I cuochi possono disporre liberamente di tutte le derrate presenti sui mercati. Questo solo dopo che sono state prelevate le migliori per i malati ricoverati negli ospedali. Costoro sono curati con ogni attenzione e amorevolezza, al punto che quasi stanno meglio in ospedale che a casa loro. Chi vuole prendere i pasti a casa propria è libero di farlo, ma non è considerata una cosa intelligente perdere tempo a cucinare, quando si può accedere a mense sopraffine per le quali si sono impegnati gli utopiani che hanno scelto di cucinare come propria attività. I bimbi, con le nutrici, stanno in un locale a loro riservato dove giocano, sono nutriti o, i più piccoli, allattati. Se qualche giovane madre non fosse in grado di allattare il suo bambino, subito si trova una nutrice che con grande gioia offre il suo latte. Non vi sono luoghi che possano fungere da pretesto per l'ozio, non fiaschetterie, non birrerie, non bordelli, così tutti sono invogliati a occupare il loro tempo al meglio, lavorando, studiando, dedicandosi ai propri riti o all'attività fisica. Risultato di tali costumi è, di necessità, l'abbondanza di tutto, e poiché, scrive Moro, questa viene equamente posta nelle mani di tutti, non c'è da meravigliarsi che nessuno sia povero e nessuno mendichi. Quando in una regione vi è un esubero di produzione, questa è convogliata in un'altra dove ce n'è meno, cosicché, scrive Moro, la floridezza dell'uno soccorre alla povertà dell'altro e fanno ciò gratis, senza nulla ricevere in cambio da quelli a cui danno. Perché sanno che quando si troveranno loro in stato di bisogno, vi sarà qualcuno che provvederà a colmare la loro scarsità con il suo esubero, così che tutti gli abitanti dell'isola vivono come un'unica famiglia. Non utilizzando moneta per gli scambi, anzi non utilizzando nemmeno gli scambi, all'oro e all'argento gli utopiani non danno alcun valore, poiché non lo ritengono utile per creare manufatti. Al contrario, è data grande importanza al ferro con il quale si possono realizzare resistenti utensili. Dell'oro e dell'argento si può fare a meno, secondo Moro, se non fosse che fuori da Utopia, scrive, la follia umana ha dato valore alla rarità. Io credo però che oro e argento possano essere ottimamente utilizzati in medicina naturale per realizzare oligoelementi. Tanto l'oro quanto l'argento sono infatti indiscussi sistemi terapeutici sia in diluizione colloidale che allo stato puro. Ma ai tempi di Moro questo utilizzo era forse sconosciuto e pertanto egli non ne suggerisce alcun saggio utilizzo, al punto che gli utopiani, per scoraggiare i giovani da qualsiasi forma di accumulazione, usano oro e argento per forgiare catene e orecchini per gli schiavi e per fabbricare pitali, vasi da notte e altri strumenti di utilizzo molto umile. I crediti acquisiti attraverso gli scambi con le città straniere che comprano ferro vengono lasciati in deposito presso gli erari di quelle stesse città con cui si sono avuti gli scambi. Questo fino al momento che se ne renda necessario l'utilizzo o per donarli a paesi in difficoltà o in caso di attacco per pagare soldati mercenari che difendano Utopia, la quale non ha un suo esercito, o ancora per pagare i nemici stessi affinché se ne vadano senza danneggiare l'isola. Per gli utopiani la felicità consiste nella ricerca e nel raggiungimento del piacere. Però non qualsiasi piacere, bensì soltanto quello buono e onesto, scrive Moro. Alla felicità, infatti, come a bene supremo, è spinta la natura umana dalla virtù stessa, alla quale soltanto è data in retaggio la felicità nel vivere secondo natura. Ogni utopiano prova piacere e gratificazione nell'offrire il suo tempo per collaborare con gli altri quando ne hanno bisogno. È un grande piacere addolcire le pene altrui e sostenerli in momenti critici. Gli utopiani sono convinti che la gioia, cioè il piacere, venga loro imposto dalla natura stessa e che sia naturale per l'essere umano aiutare i suoi simili a vivere una vita più lieta. Nessuno si procura vantaggio a danno degli altri. E nessuno si sente privilegiato rispetto agli altri, così come la natura nutre tutte le sue creature amorevolmente e con la stessa attenzione. Quindi è bene cercare il proprio piacere ed è molto bene aiutare gli altri a conseguire il loro. A questo proposito, gli animali vengono uccisi solo per necessità alimentari e mai per trarvi diletto. Digiuni estremi e faticose prove fisiche che estenuano il corpo per dimostrare la propria virtù sono considerati stoltezza. Segno di animo spietato verso se stessi, scrive, e del tutto ingrato verso la natura ai cui benefici si rinunzia. Gli utopiani, invece, sono vigorosi e agili grazie a una vita ben regolata e equamente ripartita tra attività fisica e intellettuale. Sono sani e longevi. E con la loro salute contribuiscono al benessere della terra in un meraviglioso processo di simbiosi. Quando un utopiano si ammala e i suoi dolori diventano insopportabili, gli viene data la possibilità di usufruire dell'eutanasia volontaria. Anzi, fiduciosamente si liberi lui stesso da quella vita amara, come da prigione o supplizio, ovvero consenta di sua volontà farsene strappare da altri. Chi si lascia convincere mette fine alla vita da sé, col digiuno, ovvero si fa addormentare e se ne libera senza accorgersi, ma nessuno viene levato di mezzo contro sua voglia, né allentano l'affetto nel curarlo. Questa visione di Tommaso Moro, con la quale mi sento in assoluta risonanza, è resa possibile dall'impostazione etico-spirituale che egli stesso diede alla sua vita e che emerge dalla sua visione della società ideale. La ricerca del piacere e il suo ottenimento non devono farci dimenticare che la vita terrena è solo una delle tante che viviamo. Noi non siamo il nostro corpo. Esso invece è soltanto il veicolo che noi, energia, utilizziamo per muoverci e sperimentare nel mondo. Naturalmente un simile atteggiamento di serenità nei confronti del lasciare andare il corpo ci può essere solo a seguito di una profonda consapevolezza che la vita terrena è in effetti solo un transito verso altri mondi e che il piacere è lo strumento che utilizziamo per vivere e sperimentare al meglio il tempo che decidiamo di stare sulla Terra e non il fine ultimo dell'esistenza. Sarebbe inutile e poco produttivo fare esperienze avendo un corpo malato o una situazione sociale ed economica difficoltosa. L'impostazione spirituale dell'Isola Felice si evince ancora dalle ultime pagine, nelle quali egli sostiene senza mezzi termini che in Utopia non esiste una religione di Stato, in quanto ognuno è libero di seguire quella che più gli risuona. Il termine che gli utopiani usano per intendere la divinità è Mitra, con la qual parola, scrive, tutti si accordano in un'unica essenza della maestà divina, qual che si sia. Ma essi si sentono molto vicini al cristianesimo delle origini, poiché Cristo approvò la vita in comune dei suoi, quindi un sistema simile a quello vigente su Utopia. Pertanto, un radicato e tollerante ecumenismo è alla base della felicità degli utopiani. La contemplazione della natura è considerata una forma di preghiera ed è consentito a coloro che scelgono la religione come strada, ovvero la spiritualità, il tralasciare le altre mansioni e gli studi per dedicarsi esclusivamente al servizio degli altri, accudire i malati o a lavori che servano la comunità, riparare strade, nettare fossi, tagliare alberi, scavare zolle, eccetera. Coloro che si assumono con gioia e serenità i lavori più umili sono molto rispettati poiché, scrive, mentre procacciano riposo agli altri, essi stanno continuamente in faccenda, senza per questo farsene merito e senza schernire la vita altrui esaltando la propria. I sacerdoti possono sposarsi, a meno che non desiderino il celibato, e anche le donne possono accedere al servizio sacerdotale, come nei culti antichi. E agli antichi culti si ispirano anche le vesti di sacerdotesse e sacerdoti che sono decorate con penne di uccelli contenenti simboli misteriosi che ci richiamano alla mente le figure degli sciamani e delle sciamane e l'utilizzo della musica e del canto per raggiungere stati di beatitudine e di comunione con la divinità. Insomma, l'unica garanzia della felicità e dell'abbondanza per tutti risiede nella forma di governo che è una repubblica basata sulla spiritualità e sul rispetto della terra alla guida della quale sta un principe o una principessa risvegliata. Contrariamente al resto del mondo, dove l'esistenza della proprietà privata corrompe gli animi, a ciò che ognuno badi solo ai propri interessi. Qui, dove non esiste nulla di privato, i governanti si occupano davvero delle faccende pubbliche. E mentre nel resto del mondo prospera l'illusione che ciascuno debba pensare personalmente al proprio tornaconto per non morire di fame e che si debba arrangiare da solo anziché contare sulla cooperazione, qui, in utopia, invece, scrive Moro, dove ogni cosa è di tutti, nessuno dubita che, purché si pensi a tenere ben colmi i granai pubblici, non mancherà nulla a nessuno in privato.